9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon martedì 2 febbraio da Oscar Giannino. Noi ci occuperemo anche oggi, come spesso ci è capitato, di tasse. Partiremo innanzitutto da un interrogativo. È un interrogativo che in questi ultimi anni ha fatto un po' la differenza della lotta all'evasione nei confronti dei cosiddetti paradisi fiscali, perché ovviamente di fronte alla crisi i grandi paesi assetati di gettito aggiuntivo hanno un po' cambiato registro nei confronti di paesi che hanno aliquote marginali più basse delle loro e che magari garantiscono anche il segreto bancario, addirittura c'è chi lo fa con tutela costituzionale come l'Austria. E quindi questi grandi paesi, dagli ultimi due anni e mezzo, poiché hanno bisogno di rimettere le mani su gettito che considerano loro illegalmente sottratto, arrivano a fare cose che prima non si erano viste mai. Una di queste è quella di pagare funzionari infedeli di banche svizzere o del Liechtenstein, eccetera, eccetera, che si offrono, per così dire, con delle liste di clienti, venendo meno ovviamente al proprio contratto di riservatezza che li lega professionalmente alle loro banche. E questi paesi mettono mano al portafoglio o addirittura scatenano i loro servizi segreti per mettere le mani su questi dati. La domanda che io vi faccio è: siete d'accordo con cose di questo genere? Cioè con l'utilizzo dei servizi segreti e della ricettazione per mettere le mani su liste di evasori? E il problema aperto per esempio oggi in Germania, che già 2 anni e mezzo fa fu la battistrada decidendo appunto di ricorrere ai servizi segreti. Oggi il problema è in qualche misura di carattere analogo, ma sentiamolo raccontato e commentato anche per la forbice di posizioni tra le diverse forze politiche, le polemiche o i consensi invece che prevalgano in Germania su questa posizione, sentiamolo raccontato da Beda Romano, che è corrispondente, l'ottimo corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte, che è collegato con noi. Buongiorno Romano. Buongiorno. Lei tra l'altro mi dicevano che ha passato la mezz'ora precedente il collegamento radiofonico con gli svizzeri, non so se per, tra virgolette, terrorizzarli o per rassicurarli, ma al di là di tutto, il governo Merkel su questo, com'è il termine del dibattito? Quanto spenderà, per quanti nomi, che provengono da dove, sono tutti d'accordo? Ci dica un po'. Allora, la situazione è questa, i nomi sarebbero circa 1300-1500, sono correntisti tedeschi che hanno un conto in Svizzera. Non è chiaro quale banca sia stata coinvolta, non è chiaro se si tratta di una banca inglese, la HSBC di Ginevra, se si tratta della UBS o addirittura del Credit Suisse. L'informatore, la talpa, chiede 2,5 milioni di euro per questi tabulati. Il governo è tendenzialmente pronto a pagare questi soldi per ricevere questi tabulati. Dico tendenzialmente perché la signora Merkel ha avuto una presa di posizione ambigua ieri, non ha voluto parlare di soldi, non ha voluto parlare di pagamento, ma ha spiegato di voler fare tutto il possibile per recuperare questi dati se questi dati si rivelano interessanti. Perché la signora Merkel è stata ambigua? È stata ambigua perché la situazione non è facile per lei, né da un punto di vista morale né da un punto di vista politico. Cominciamo da un punto di vista politico. All'interno della coalizione ci sono fondamentalmente due anime. Da un lato direi principalmente i democristiani, che sono favorevoli a una situazione di questo tipo, in altre parole al pagamento dei soldi per recuperare i dati. Dall'altro direi i liberali, che sono invece contrari, perché da un lato non amano questo aspetto, l'aspetto morale di questa vicenda, e dall'altro naturalmente hanno tra i loro elettori probabilmente molte persone che potenzialmente potrebbero essere coinvolti da questa vicenda. Che cosa farà il governo? Perché questo a questo punto è l'aspetto centrale. Il governo tenterà di capire qual è la posizione finanziariamente più interessante e politicamente più premiante. E ho l'impressione che in questo momento la Germania sia tendenzialmente orientata a pagare quello che c'è da pagare per avere questi dati, in un momento in cui anche in Germania c'è un sentimento abbastanza profondo anti-evasori. La cosa è che in passato, in realtà, quando 2 anni e mezzo appunto si usarono metodi analoghi, cioè pagare e attraverso i servizi, il risultato fu abbastanza buono, perché mi pare che insomma si raccolse in termini di evasione e anche di evasori autorevoli, perché poi c'era il presidente delle Poste e così via. Quindi, forti di quel consenso e del risultato di cassa, probabilmente le obiezioni dei liberali verso Vela dovrebbero essere superate, o no? Oppure la reazione degli svizzeri in qualche maniera conta anche del sistema bancario, che insomma è stata abbastanza aspra, ma non ha evitato che i grandi paesi dell'Europa, Italia per prima, ricordo a tutti che per la prima volta in più di 100 anni noi abbiamo scatenato la Guardia di Finanza in tutte le agenzie italiane delle banche operanti sul nostro sistema, incardinate e di diritto svizzero. Quindi tutti i grandi paesi si sono un pochino dati un'accelerata nei confronti della Svizzera, e le reazioni svizzere nei confronti del governo contano nella politica tedesca oppure no? Ma direi proprio di sì, perché nel 2008 la vicenda era con il Liechtenstein. Il Liechtenstein è un paese minuscolo in mezzo alle Alpi, e poteva essere in un modo o nell'altro ignorato dall'establishment politico. No, la Svizzera non è un paese che la Germania si può permettere di ignorare. Non lo può fare perché i legami economici, politici, sociali, sono molti i tedeschi che abitano in Svizzera, non permette all'establishment politico di ignorare la Svizzera. Ecco perché la Germania ha avuto ieri un atteggiamento da un lato ambiguo, come dicevo prima, e dall'altro il governo si è subito messo in contatto con il governo federale svizzero per cercare di trovare un accordo o comunque di calmare le acque. Io aggiungerei un altro aspetto cruciale nel capire come potrebbe evolvere la situazione e per capire anche la posizione dei liberali. I liberali sono preoccupatissimi dalla protezione dei dati. Io ho l'impressione che la Germania si porrà a un certo punto il problema della protezione dei dati. Questo è un paese che negli ultimi 50 anni, naturalmente dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, ha sottolineato molto l'aspetto protezione dei dati personali, protezione della privacy e via di seguito. Beh, la vicenda di queste ore, la vicenda di questi giorni pone questo problema, e ho l'impressione che i liberali insisteranno molto su questo aspetto. L'ultima domanda, perché a me fa molto piacere che lei sottolinei anche che poi nella posizione storica dell'FDP, cioè dei liberali che sono scelti alla SPD nell'alleanza con la Merkel dopo le elezioni, c'è anche appunto un aspetto fortemente politico, ideologico per così dire, come consono la tradizione liberale. Lei aveva giustamente detto, certo, bisogna poi non dimenticare anche che gran parte degli evasori potrebbero essere poi degli elettori liberali, cioè per il fatto che hanno ampi redditi e patrimoni. Ma detto questo, per la Germania, per la tradizione ordinamentale tedesca, il fatto che vi siano poi paesi come l'Austria che hanno la tutela della riservatezza bancaria elevata addirittura a fonte costituzionale, nel senso che è la Costituzione che fissa il principio, adottare un cambio di passo così energico nei confronti di questi paesi, che sono poi la tradizione di diritto, oltre che di lingua, anche tedesca, rappresenta un problema risolto come? Cioè, anche lì è il forte consenso elettorale dei cittadini tedeschi a reddito dipendente che fa la differenza e rende oggi possibile meglio la politica tedesca, quello che storicamente era quasi impensabile in altri tempi, oppure non conta solo questo elemento elettorale, ma conta anche proprio una visione diversa, maturata anche giuridica, di uno spazio europeo rispetto ai quali queste tutele non sembrano più avere diritto di tutela? Tremonti aderisce a questo secondo filone perché dice di aver adottato una visione politico-ordinamentale diversa nei confronti delle tutele, per esempio, della riservatezza dei dati bancari. In Germania, invece? Ma credo che giochino due aspetti. Credo che sono due aspetti che sono non immediatamente visibili, ma il primo aspetto è che evidentemente la Germania è cambiata in questi ultimi 60 anni. Subito dopo la guerra e nei primi decenni subito dopo la guerra la Germania aveva un atteggiamento nei confronti dei propri vicini estremamente cauto e prudente, evidentemente, per ovvi motivi. Oggi, a mezzo secolo e più dalla fine della guerra, il paese si può permettere di avere un atteggiamento diverso nei confronti dell'Austria, del Liechtenstein o della Svizzera. Può permettersi di presentare le proprie posizioni con un po' più di forza, e come lo sta facendo in queste circostanze. E il secondo aspetto, che è visibilissimo in Germania invece, questo è chiaro ed è chiaro per tutti, è che la Germania, come tutti gli altri paesi europei, ha enorme bisogno di denaro fresco. E questo questo rafforza la posizione del governo. Allora, la domanda, io ringrazio Beto Romano, che ci dobbiamo fare però è: se gli stati devono recuperare gettito, è proprio così giusto che i politici su questo, invece di pensare a spendere meno in nome del consenso elettorale dei cittadini contribuenti pagati amaramente e pagati ancora di più purtroppo per il fatto che pesati amaramente, voglio dire, e piagati, non pagati ma piagati volevo dire, per il fatto che ai deficit storici, al debito storico si aggiunge quello necessario in anni di crisi, o forse non troppo necessario, ma che comunque si accumula ulteriormente in questi anni, è così giusto dare a questi politici che cavalcano questo sentimento popolare comprensibile la facoltà poi di andare ancora oltre in nome del fatto che la lotta all'evasione giustifica il venir meno di ogni riservatezza? Io ricordo che storicamente la tutela dei dati bancari in paesi diversi dalla Germania di diritto e lingua tedesca è servita anche, non vi fate travolgere dall'ira perché lo sto dicendo, non voglio adesso accomunare a nobili cause gli evasori fiscali, però è servita anche a sottrarre la libertà, il diritto alla libertà oltre che al patrimonio e all'esistenza in vita di migliaia e migliaia, per esempio di europei negli anni del nazismo, di europei però ebrei. Allora, non possiamo dimenticarci che la politica non è solo capace di eccessi di virtù, è capace soprattutto, più spesso che di eccessi di virtù, di eccessi di vizio, se me lo consentite. Allora, da una parte partiamo dai dati fiscali, da quello che ci dicono, dall'iniquità dei pagamenti fiscali una volta che li analizziamo in termini comparati per diverse classi di reddito, però dall'altra, prima di battere solo le mani al venir meno di ogni principio di tutela, di ogni diritto naturale del contribuente e la sua riservatezza, io lascio sempre un punto interrogativo. Abbiamo parlato del precedente tedesco, vediamo adesso che cosa ci dicono invece, apriamo questa seconda parte della nostra trasmissione, su i redditi degli italiani così come fotografati dalle dichiarazioni consegnate nel 2009 relative all'anno d'imposta 2008, perché le tabelle relative, quindi distinte per tipo di contabilità e tipo di contribuente, sono possibili, sono entrate in consultazione solo da pochi giorni sul sito dell'Agenzia delle Entrate e quindi i giornali hanno iniziato a pubblicarne i dati e a spiegarle agli italiani, e ne parleremo in questa seconda parte di trasmissione insieme a Giuseppe Bortolussi, che conoscete benissimo, il segretario della CGA di Mestre, che incidentalmente, mi fa piacere, è anche candidato oggi per il PD in regione alle regionali in Veneto. Buongiorno Bortolussi. Buongiorno a voi. Buongiorno. E poi con Roberto Ippolito, che gli ascoltatori di Radio 24 conoscono bene, perché più spesso in questi ultimi anni, in questi ultimi tempi, lo sentiamo su questi temi. Ricordo il suo libro Evasori, chi come quanto, l'inchiesta sull'evasione fiscale, grandi passaggi, buon piani. Buongiorno Ippolito. Buongiorno, grazie. Allora, ricordo sinteticamente alcuni dati, perché poi li spiegheremo di volta in volta con le domande ai nostri ospiti e alle loro opinioni. Partiamo da un semplice fatto: sopra i 150.000 euro quasi tutti dipendenti e pensionati, questo è il titolo del Corriere della Sera domenica scorsa, nelle due pagine in cui ha fatto la sintesi dei dati, e naturalmente questo è un dato che automaticamente divide gli italiani, come sempre avviene, perché il dato di fatto di sottolineare che solo 90.000 sono i lavoratori dipendenti che hanno dichiarato al fisco più di 150.000 euro, e però il problema è che quelli che hanno invece dichiarato più di 150.000 euro e non sono lavoratori dipendenti sono molto, ma molto di meno. Quindi questa cosa ovviamente dà l'impressione che se il numero complessivo di coloro sopra i 150.000 euro è molto basso e quindi c'è una fotografia di fedeltà nella dichiarazione abbastanza inadeguata, quello che colpisce di più è che in questa fedeltà inadeguata comunque i lavoratori e i pensionati battono stratosfericamente i lavoratori autonomi. Poi altre due osservazioni. C'è stato un andamento diversificato sul totale dei lavoratori autonomi e indipendenti dell'adeguamento del reddito dichiarato, quelli dell'innalzamento del reddito dichiarato, che testimonia che dal mio punto di vista ragionare per grandi numeri dicendo tutti gli autonomi e tutti i professionisti sono scandalosamente in ritardo sul pieno adempimento del proprio dovere fiscale è sbagliato. Allora io parto da queste prime domande, ma mi tocca come sempre chiedere a Bartolussi di ricordare a noi tutti ciò che i giornali tendono a dimenticare quando si parla di lavoratori autonomi, artigiani, commercianti e professionisti, che naturalmente la media delle dichiarazioni che viene presentata in questo caso non tiene conto della facoltà di splitting per alcune di queste categorie e quindi ovviamente non si tratta di infedeli dichiarazioni come potrebbe avvenire dalla mera rappresentazione numerica, ma si tratta invece di un regime diverso. Comunque, Bartolussi, questi dati testimoniano che si è fatto un passo avanti verso la maggior fedeltà e tra l'attenuazione del scontro tra dipendenti, autonomi e professionisti, oppure non ancora dal suo punto di vista? Io rimango del parere e mi riaggancio a quello che diceva prima, che il problema è il gestore, il problema è l'amministratore. In Italia paghiamo più tasse di Francia, Germania, Inghilterra, parlo di pressione tributaria, imposte, tasse, tributi, e c'è da chiedersi perché abbiamo meno e peggiori servizi. Allora, intanto il problema sembra quasi dare questa dimensione sacrale al pagare le tasse, il dovere dei doveri, serve solo a nascondere il fatto che ha più responsabilità il gestore di quello che al quinto piano non mi paga le spese condominiali. È vero che qualcuno evade, ma intanto noi siamo un paese dove abbiamo 3 o 4 regioni in mano l'economia criminale e l'economia sommersa. Se fa la tara con questo vedrà che già le cose quadrano. Io ho fatto un calcolo, è un calcolo molto approssimativo, ho comparato l'Italia alla Francia per quanto riguarda i redditi molto alti. Lì c'è il reddito familiare, qui invece abbiamo il reddito individuale, non c'è un granché di differenza, ce ne sono di più che dichiarano redditi alti in Francia, ma non è tanto diverso, abissale la differenza con Germania e Inghilterra, ma con la Francia no. Allora vede, le dico una cosa, i redditi quando vengono prese queste cose, come dire chi dichiara più di 150.000, intanto suona come alibi, perché vede, se lei gira il Mediterraneo, gira l'Adriatico o basta che si metta su una strada, vede passare tanti SUV e vede tanti diciamo panfili, yacht eccetera, c'è il registro navale, c'è il registro automobilistico, si può risalire in 15 giorni, non si vuole fare e allora si gioca questo gioco che non è tanto pulito tra lo Stato che chiede ancora soldi. Le ricordo, mi scusi, una chicca: Filippo il Bello ha fatto scomparire l'ordine dei Templari perché gli ha preso i soldi. I nazisti hanno cominciato a perseguitare gli ebrei perché hanno cominciato a sequestrare i loro beni, dopo hanno fatto il resto. Mi spiego? Allora, detto questo, tra parentesi, non c'entra niente ovviamente il fatto italiano, io le dico una cosa, vede, se io vado a vedere i redditi e la scomposizione mi permetta, io l'ho fatta ancora sui redditi 2007 dichiarati nel 2008, ma sono perfettamente simili a quelli che ha in mano lei. Vede, se io prendo tutte le imprese, il reddito medio è 31.200, ma se io vado a vedere Nord-Ovest 37.700, se vado a vedere i congrui, perché il 74% di chi fa queste dichiarazioni è congruo, cioè rientra nei parametri fissati dal Ministero. Sa quanto dichiara Nord-Ovest? 53.800 di media. Nel Nord-Est 51.500. Io vado a vedere solo le persone fisiche, cioè imprese individuali e lavoratori autonomi, vede Nord-Ovest 31 e 300 in generale, i congrui 41 e 500, 45 e 500, nord-est 29 e 700, i congrui 43 e 300, redditi di tutto rispetto che sono cresciuti negli ultimi 10 anni. E se si tiene conto, come diceva giustamente lei, del fatto che si può fare lo splitting familiare, cosa significa? Significa che se io ho un bar, lo intesto a me e a mia moglie, uno al 49 e l'altro al 51, appaiono due redditi da 40, ma fa 80. Esattamente. Quello che... solo, mi perdoni ancora, certo, due parole, certo, perché certo, mi sono dilungato, ma vede, poi c'è un altro aspetto che bisogna tenere presente: il 74% di questi lavoratori autonomi lavora da solo. Allora, quanto intonaco può attaccare un muratore dipendente in 8 ore e quanto di più ne può attaccare un autonomo che dichiara il 40, il 50%? Finiamola con questa guerra, mi spiego, tra ceti, tra cose, perché è sbagliata, perché vede, quando uno dichiara mediamente, come lei, se lei guarda nella sua macchina quando gira, vedrà che corra di qua, corra di là, faccia pezzi di autostrada, pezzi di strada comune, lei sempre una media dei 50-55, non va oltre. Mi spiego, sembra strano, ma ci provi, e così è per i redditi. Vede, quando uno dichiara al nord il doppio del sud, quando ci sono il 15% delle aziende che sono in turno, nel senso 7% cessa e 7% nasce, quando il 15% sono marginali, fate queste medie, come dire, in questa strada c'è tutte curve, in questa è piena di buche, in questa, quindi la mia media non può superare questo. Ok, fermo Giuseppe Bortolussi perché abbiamo bisogno della pubblicità. Io dico solo che si può essere candidati della sinistra in una regione come il Veneto per il governo regionale e pensarla come Bortolussi, non esattamente come Vincenzo Visco, non è polemica. Io sono perché lo studio dei dati testimoni ai dipendenti, ai pensionati dipendenti, una solidarietà nei confronti però non solo loro ma anche di chi è autonomo e artigiano, cioè della spina dorsale del sistema produttivo del paese, senza cadere nella trappola ordita dallo Stato che serve a dividerci per acchiappare il più da tutti, mi dispiace, per poi reggere spesa e deficit inefficiente. Allora torniamo ai dati delle dichiarazioni 2009 sui redditi 2008 per chiedere anche a Roberto Ippolito un commento. Che cosa è, qual è la fotografia che ci restituiscono questi dati? Intanto ci sono più o meno 21 milioni, poco più di 21 milioni di posizioni fiscali da lavoratori dipendenti. Per questi lavoratori dipendenti il reddito medio dichiarato, realizzato nel 2008, dichiarato nel 2009 è stato più o meno di 21.600 euro. A questi poi, a questi 21 milioni di posizioni, bisogna aggiungere i 9 milioni circa di pensionati che hanno in questo caso una media di reddito realizzato nel 2008 e dichiarato nel 2009 che naturalmente è inferiore rispetto ai 21.600 euro, e perché dovete pensare che di queste 9 milioni di persone ben 5,7 milioni di pensionati stanno sotto la soglia dei 10.000 euro realizzati di reddito nel 2008. Poi i lavoratori autonomi distinguiamoli tra quelli in regime di contabilità semplificata, e quindi sono in gran parte in questo caso artigiani e commercianti, sono più o meno 1,5 milioni di dichiarazioni. Qui il reddito medio dichiarato è più basso dei lavoratori dipendenti, sono più o meno 18.000 euro nel 2008, e vi ricordo che per questo però bisogna ricordare lo splitting che abbiamo detto sia io che Bortolussi, per non cadere nella facile trappola di dire ah ma come, e qui il reddito medio è più basso addirittura di quello dei pensionati, non solo dei lavoratori dipendenti. Perché se si va a vedere invece poi nel lavoro autonomo la fascia dei contribuenti ma in regime di contabilità ordinaria, cioè non semplificata, quindi con un volume d'affari maggiori, ecco che il livello di dichiarazioni medie balza a un livello molto superiore, perché stiamo parlando in media di 33.150 euro, e E qui si verificano anche poi, se si sale nel grado di risoluzione della lente del microscopio, se si va a vedere i circa 700.000 professionisti, per i professionisti in questo caso ancora una volta il reddito medio dichiarato nel 2009 realizzato nel 2008 sale ulteriormente a 44.266 euro. Naturalmente, ripeto, è una fotografia che in qualche misura testimonia un venir meno di alcune delle più evidenti discrasie tra classi diverse di redditi, ma continua a testimoniare una certa faticosa lontananza tra questi dati e quelli espressi invece semplicemente se si guarda per le strade del paese, come invitava Bortolussi a fare. Ippolito, dal suo punto di vista, la storia che ha raccontato benissimo indagini fatte con un certo criterio, non troppo bene, della asistematicità dei controlli e così via. Questi numeri sul 2008, innanzitutto quali considerazioni le inducono dal punto di vista della giustizia distributiva e poi dell'efficacia anche delle azioni intraprese da questo governo negli ultimi due anni? Qual è la sua opinione? Partiamo dall'ultimo punto, velocissimi, l'efficacia. Due anni fa, mi ricollego a ciò che è stato detto all'inizio della trasmissione, ricevemmo gratuitamente dalla Germania proprio una lista di 390 evasori sospetti dell'Liechtenstein. Questa lista è stata più volte citata in dichiarazione dei vertici dell'amministrazione finanziaria, ma non sappiamo se solo uno, dico soltanto uno, di questi evasori, anche senza nome e cognome, anche se c'erano gente nota, politici, imprenditori, manager e cantanti, se solo uno di questi evasori è stato finalmente costretto a pagare. Che cosa voglio dire? Che c'è il rischio fortissimo che parliamo, le liste ci sono, le cose sono terribilmente note, come sono noti ed erano noti i dati di questi giorni, a me è venuto voglia di non leggerli, tanto erano noti, e però l'azione di contrasto non viene fatta. Non viene fatta al punto che questi dati del 2008 in realtà sono inferiori a quello che sta accadendo nel 2009, se dopo volete vi do i numeri in base ai quali secondo me assolutamente nel 2009 c'è un fortissimo aumento dell'evasione fiscale. La fotografia, ha ragione Bortolussi a dire che non si può criminalizzare i lavoratori autonomi rispetto ai dipendenti, attenzione però quando parliamo di divisione di un'impresa fra più soggetti, mi viene in mente che siamo il paese anche delle furbizie e dell'illusione, per cui facilmente ci sono coniugi che fingono di separarsi per dividersi i beni e i redditi e pagare meno tasse. Si calcola che siano il 5% i coniugi che fingono le separazioni per questa motivazione puramente fiscale. Accetto che non si criminalizzi dipendenti e autonomi, sarebbe una sciocchezza abissale, ma accetto altrettanto che non si criminalizzino tre regioni e si dica che nel Veneto sono tutti assolutamente onesti, perché questo non è... No, ma non tutti, lui parlava di medie più significative da una parte d'Italia che altre. Ma ci sono tanti fenomeni, a cominciare dalle case nascoste al fisco, ora non ho fatto in tempo ad andarmi a prendere i dati mentre c'era la pubblicità, che sono dimensioni pazzesche l'evasione in questo campo, anche nel Veneto, ma anche in Piemonte e Lombardia, senza nulla togliere ai dati pesanti che ci sono in regioni meridionali. Tenore di vita, possiamo fotografare assolutamente tutto senza violare troppo la riservatezza, perché fra l'altro alcuni beni sono ostentati per strada. Facciamo solo un esempio, vi do, su cui si parla poco, parliamo spesso di proprietà delle automobili, prendiamoci le automobili che non sono in proprietà, le auto che sono in leasing. Su 100 titolari di leasing, 45 hanno un reddito inferiore al canone pagato. Allora, le distorsioni le sappiamo, questi dati ci rivelano delle distorsioni, non ci rivelano che il ristorante è peggiore dell'impiegato, ci rivelano che c'è una profonda ingiustizia fiscale in Italia, una profondissima ingiustizia fiscale che va soprattutto sulle spalle degli onesti, di chi fa il proprio dovere, che è costretto a pagare anche per gli altri. E mi ricollego al primo punto, se c'è un diritto alla riservatezza, che è sicuramente importante, non c'è un diritto al furto, che è quello degli evasori, che va appunto a scapito degli altri. Sentivo parlare di principi liberali, i principi liberali sono il rispetto delle regole. Allora questi dati... Sì, sì, alta, Roberto, il principio liberale è anche che oltre un certo livello il prelievo è contro il diritto naturale, però... Perché questo in Italia noi tendiamo... No, perché un secondo, Roberto, posso dirti solo, non per interromperti, ma il principio per il quale l'evasore viola la legge e deve adempiere il suo obbligo è un principio che deve valere per chi è liberale, questo è un principio dello Stato di diritto, e sono d'accordo. Allora, però aspetta un secondo, di solito si tende a dire che le tasse sono elevate, cioè che l'aliquota marginale nel nostro ordinamento è elevata, perché è colpa degli evasori, perché si abbasserà solo quando tutti gli evasori pagheranno. Io faccio sempre per notare che gli evasori possono e devono pagare tutto, questo non mi abbassa a me il prelievo marginale, mentre invece il prelievo marginale così elevato induce molti a fare esattamente il ragionamento che dicevi tu. Ma c'è un'altra questione molto più importante che non riguarda l'evasione sotto questo aspetto. Qualunque paese civile, e noi oggi non lo stiamo facendo, si chiede qual è il livello della spesa pubblica, ovvero quali beni e servizi vogliamo permettere. Esatto. Questa è l'altra metà, come dire, del problema. Oggi stiamo parlando di evasione e dobbiamo sancire il principio che non c'è il diritto al furto, che è quello degli evasori, non c'è il diritto alla truffa degli evasori, perché significa togliere soldi a qualcun altro, non c'è il diritto di avere redditi dichiarati bassi e poi avere leasing più alti, non c'è il diritto di andare a comprarsi un pacchetto di viaggi o andare a comprare un quadro o una casa d'asta per migliaia di euro e non dichiarare un bel niente al fisco, tutto questo assolutamente non c'è. Benissimo, altro Roberto, aspetta un secondo, io difendo però, ripeto, diritto naturale che la Germania ha rimesso come principio costituzionale, riconosciuto dalla Corte Costituzionale, e per questo è scesa la spesa pubblica prima della crisi ed è scesa la pressione fiscale in Germania negli ultimi 8 anni, perché c'è un livello di prelievo oltre il quale le pretese dell'ordinamento sono inaccoglibili perché ledono un diritto naturale. Questo è stato il principio per il quale in Germania spesa pubblica, maggior rispetto di Maastricht, quindi minor deficit, minor debito pubblico e pressione fiscale sono diminuiti. Nel nostro paese questo, secondo me, tendiamo drammaticamente a dimenticarcelo, cioè ci dimentichiamo che esistono centinaia e centinaia di migliaia di casi di piccole imprese, imprese autonome, familiari, artigiani e commercianti che se davvero dovessero adempiere al pieno obbligo fiscale, il conto come faccio sempre io è 62% del reddito lordo tra mia partita IVA e due società nel 2008, 62%, non l'11% pagato da Unicredit nel 2008 come tax rate reale nel suo bilancio, tra 11% e 62% ci sono un bel po' di punti di differenza. Ecco, io ho dovuto adempiere, molti altri nelle mie condizioni con una partita IVA e due società, micro società con pochissimi dipendenti, pagare quel 62% in un anno di crisi come il 2008 e poi il 2009 significa chiudere. Questo è un punto che noi non possiamo, secondo me, dimenticare. Ecco, sentiamo come la pensate sui diversi punti fiscali toccati in questa trasmissione. Cominciamo innanzitutto con Marco da Parma. Marco, prego, ci dica. Sì, buongiorno. Senta, io mi rifacevo alla parte prima della discussione, anche perché poi purtroppo per motivi di radio ho perso la seconda. Quella tedesca, per così dire. Sì, diciamo, le questioni di principio. Non voglio entrare, anche perché non sono un tecnico, sulle questioni di come stabilire... No, che cosa è giusto fare pur di mettere le mani sulla lista degli evasori, insomma. Esatto. Io penso che l'evasione sia un crimine, premesso che ho una profonda fede liberale, premesso anche che sono convinto di vivere in un paese che non lo è liberale per questioni, per vicende storiche. Avendo vissuto in paesi anglosassoni per lungo tempo, posso testimoniare che nel quotidiano proprio manca questa percezione del liberale. Però vedo anche una deriva pericolosa, una confusione che porta appunto a confondere il lusso individuale con il benessere collettivo. Cioè, questo è un paese sostanzialmente, è uno Stato povero in un paese ricco, e credo che l'evasione fiscale, che parliamoci chiaro, la pressione fiscale, purché sia equa giustamente, però è un po', sente un po' la coscienza del capitalismo. Se togliamo questo, se togliamo questa forma di controllo, premesso che va rispettato quello che lei giustamente diceva sul diritto naturale, eccetera eccetera, che non si esagerate, secondo me lo è questo, secondo me lo è, ma non la voglio interrompere. No, su questo possiamo discutere, sul fatto appunto della parte tecnica, della liquida, però secondo me c'è una deriva nel principio in Italia, che è quello che tutto sommato la tassa sia un'ingiustizia perché è tassa, per questione proprio di principio. Ecco, stiamo attenti, perché questo ci porta molto lontano da un paese liberale e civile, quale può essere un paese anglosassone. E quindi lei dice, insomma, io giustifico tutto purché si mettano le mani sulle liste degli evasori, sì, si capisco bene. Assolutamente sì, perché l'evasione è come lo spaccio di droga, cioè non ha scuse, non ha scuse. Poi possiamo metterci d'accordo su come farlo. La privacy è una cosa che può entrare... Marco, posso chiederle una cosa? Ma se nell'evasione non ha mai scuse e lo Stato ci ha sempre solo alzato le tasse, noi non è che assecondiamo signori politici che su questo, sul fatto che gli italiani piegano la schiena e accettano pressione fiscale, e se sommiamo pressione fiscale e la spesa pubblica siamo a più del 100% del PIL nel nostro paese. La domanda che faccio a tutti, ho interrotto Marco, che rispetto ovviamente, è però che c'è un limite oltre il quale... Io sono per lottare contro gli evasori, ma ai politici dobbiamo mettere uno stop, perché sennò la storia italiana dimostra che l'accrescimento del livello di spesa e di pressione è inerziale, è sempre verso l'alto, è asintotico, non si ferma mai. E questo a me preoccupa. Luciano da Torino, che pensa Luciano? Ma penso che per una volta stranamente sono d'accordo con lei, la cosa mi stupisce. Però, spero che non la preoccupi troppo. No. No, senta, io sono un agente di commercio, monomandatario. Non posso evadere neanche volendo, perché non vengo pagato se non fatturo fino all'ultimo centesimo. Ho una pressione fiscale reale di conti della serva, cioè quattrini che entrano e quattrini che escono, ci sfiora il 60%, che è una cosa impressionante. Provi a fare i conti della serva una volta, perché cabelle, balzelli e tasse, non c'è solo IRPEF o altre cose. E quindi quello che lei diceva prima mi trova perfettamente concorde, no? E ho la nausea, ma veramente la nausea, di questa ciclica, di questo ciclico attacco per mettere contro due parti sociali, che serve soltanto a mascherare il fatto che in realtà non si vuole fare nulla. Perché io non esco alla sera e non mi gioco 5-8 mila euro per divertirmi, 75 mila euro come ha fatto Ronaldinho del vostro notiziario. Per me è una serata incredibile quando esco con mia moglie e spendere 200 euro al ristorante una volta all'anno per andare alla morra di Venta d'Alba. Però voglio dire, io ho 85.000 euro mal contati di provvigioni pagate all'anno, faccio 75.000 chilometri all'anno, faccio giornate da 12-13 ore e il 60% di tutto questo comunque lo do allo Stato. Grazie, quindi... grazie Luciano per questa testimonianza e per questo accurato equilibrio. Mi dispiace che siamo raramente in consenso, però non credo oggi di rappresentare punti molto diversi da quelli che rappresento abitualmente. Claudio da Ferrara, prego Claudio. Dottor Giannino, buongiorno. Io volevo toccare due punti semplicissimi. Il primo è che chi non paga le tasse, diciamo, secondo la legge deve andare in galera, e questo qui è chiaro. Però c'è un grosso problema, che è l'elusione fiscale. Sì. Che è l'elusione fiscale, perché c'è gente che può scaricare l'auto per chi non le cene con gli amici, può scaricare di tutto e quindi poi dopo risultano nulla tenenti. Io sono gli amici che stanno fatturati di 10 milioni l'anno e alla fine non pagano neanche i ticket perché risultano nulla tenenti. Io invece che sono dipendente pago tutto. Certo. Il grosso nodo è l'elusione, neanche diciamo l'evasione fiscale, che lì la Guardia di Finanza può andarci, beccarli e cacciarli in galera. È l'elusione, perché qui c'è gente che scarica macchina, scarica cene con gli amici, scarica di tutto e di più. Chiarissimo Claudio, sentiamo su questo stesso punto come la pensa Fabio della provincia di Alessandra. Fabio, prego. Sì, buongiorno. Io abito al nord, reddito dichiarato nel 2008 120.000 euro, sono un avvocato. Io volevo fare questo ragionamento perché ho pensato e sono perfettamente d'accordo con lei. Le faccio un aneddoto, le faccio un esempio. Un po' di anni fa fu obbligatorio mettere il cappellino quando si serviva un bar o una pasticceria. Immediatamente tutti indossavano questo cappellino fastidioso. Dopo poco tempo, e oggi lo potete constatare, nessuno indossa più quel cappellino. Però nel momento in cui qualcuno con una divisa o con un distintivo entra in quella pasticceria, immediatamente scatta il meccanismo in cui questa persona si sente immediatamente in difetto e ha un problema. Io non vorrei che questa pressione fiscale esagerata ai limiti della intollerabilità, perché questa è la verità, lei ha fatto una giusta percentuale, il 62% vuol dire avere un socio seduto che lavora senza lavorare, prende più di quello che guadagni te, sia finalizzata a un sistema di controllo di potere, cioè si dice tu lo so benissimo che non potrai mai essere un perfetto contribuente, unito alla complicazione di una dichiarazione dei redditi che in Europa nessuno capisce, perché se lei esibisce il nostro 740, 770 a uno straniero gli viene da ridere, non capisce cosa significa quella cosa. Ecco, a questo punto tu sei soggetto ad avere timore, sei meno libero, perché in un paese dove ci sono leggi certe, un uomo è più libero, in un paese dove le leggi sono complicate, tu sei obbligato ad arrangiarti, e come è storia degli italiani, però al tempo stesso hai paura, e quella paura ti frena la libertà. Grazie, grazie a Fabio La Provincia Alessandra, anch'io credo che non sia una grande vittoria per un liberale sentir dire da un ministro come Giulio Tremonti, finché gli italiani non pagheranno tutti tutto, io continuerò a chiedere a loro più di quanto chiederei ordinariamente. Io ritengo che i limiti della pressione fiscale non siano uno strumento per realizzare su questa terra l'Eden, cioè il fatto che ogni uomo rappresenti la virtù adempiuta. Lo Stato mi deve chiedere quello che è giusto chiedere, non mi deve giustificare il fatto che mi chiede il doppio in nome del fatto che ci sono dei delinquenti contribuenti, perché questa è una maniera per chiedere a tutti troppo, a differenza poi delle risposte che possono venire. Allora, vorrei semplicemente una opinione finale però da Roberto Ippolito, da Giuseppe Bortolussi, un minuto e un minuto. Ippolito, la divisione destra-sinistra sul tema della lotta all'evasione, secondo te continua a essere, destra-sinistra come sono attualmente in Italia, continua a essere fondata o i dati dicono di no e della stessa cosa quando sono al governo? Ma oggi vedo molta confusione, nel senso che la destra oggettivamente, sono i risultati di governo che parlano, non combatte l'evasione fiscale, e la sinistra non sa più che pesci pigliare, perché ha perso le elezioni sul tema fiscale, è stato uno dei temi su cui ha perso le elezioni, e oggi non è riuscita ancora a darsi un orientamento, salvo che un orientamento di principio, per dire che le tasse si pagano, individuare una strada esatta su come indirizzarsi per far pagare le tasse e per come conquistare consenso nel senso più bello di questa espressione in base a una strategia, credo non sia venuto. Però ripeto, non c'è alcun dubbio che i dati del 2009 tutti in modo preciso ci dicono che l'evasione fiscale sta aumentando. Roberto, naturalmente io sono da giornalista, ho l'obbligo poi di ricordare che il Ministero, l'Agenzia di Entrata e le Guardie Finanze dicono il contrario, però io non entro adesso nella polemica, dico solo Bortolussi invece, c'è una maniera per cui la sinistra, che ha perso la elezione, come ricordava Roberto Ippolito, avendo sul fisco proprio subisco uno dei punti vodè, consideri insieme a lei diversamente un pochino gli aggregati delle diverse classi di reddito e delle diverse tipologie di reddito e non adotti più questa visione così un po' penalizzante? Lei che dice? Io spero, anche se c'è qualcuno che ha fatto scopo della sua vita fare confusione su specie certi giornalisti, vede, quando lei mi cita, non lei ovviamente, ma quando lei mi cita i lavoratori dipendenti 21.000 euro, dentro c'è il Gran Commis dello Stato, dentro c'è magari il manager parapubblico, semipubblico e privato. Lei capisce che questa non è la media giusta, sa qual è la media, sa quando prende un operaio, perché non si può parlare che i redditi sono bassi e poi dire 21.000 euro. Il reddito medio di un operaio metalmeccanico è 13.000 euro base imponibile e di un edile è 15.000 euro. Quindi quando lei lo confronta con i lavoratori autonomi, tenendo conto di nord e sud, il 74% lavora da solo, vede che le cose quagliano. Mediamente un lavoratore autonomo che lavora da solo dichiara il 40% più di quello che fa lo stesso mestiere. Le ripeto, ma se uno sta tutto il giorno a mettere su mattoni e fa 8 ore, quanto può guadagnare in più se è autonomo rispetto al dipendente? Se dichiara il 40% di più è un galantuomo, consideri le banche, consideri il tempo non che perde, dubbio. Il commercialista. Io devo dire, io dichiaro sempre il mio punto di vista è molto simile, analogo, forse addirittura identico a quello di Giuseppe Bortolussi. Ringrazio anche Roberto Ippolito e Beda Romano, l'appuntamento è per domani, grazie a regia Pietro Locorte e Alessandro Marco Turri, mio braccio destro, la linea al giornale radio.